Come un pesano senza voglia di scappare, tipo un cristiano con la fede che non vuol pregare. Conoscere se stesso sai che è fondamentale, come il bisogno in un corpo di linfa vitale. Quantificare, identificare, sapere che ogni giorno c'è qualcosa da imparare. Normale o diverso, ma sii sempre te stesso. Il dire con il fare, sai, non vanno all'opposto. Il flusso che senti, tutto ciò che vedi, è tutto falso intorno a te, ma tu ci credi. A volte l'autocredersi inferiore, e si fa di tutto per essere il migliore, senza pudore ma con tanto sudore. In contrapposizione c'è chi è nato da un bucone, e grazie ai soldi lui prende e sperpera. Non si conosce, pensa solo alla sua estetica, con sta grammatica vedi volo via. Se questa è condizione estrema, così sia. Mia è questa volontà, e la trasformo sempre in buona qualità. Anche se è più bastarda, ma sai che non ti inganna. E se ce n'è bisogno, sono il tipo che ti azzanna. E se si affanna, non si ferma. Io combattente di sta guerra, coi piedi per terra vedi cammino. Il mio me stesso è sempre qui vicino, grazie a Dio. Conosci te stesso in ogni tuo verso, conosci te stesso e sei normale o diverso. Conosci te stesso, non solo il tuo aspetto. Conosci te stesso, te stesso, te stesso. Conosci te stesso in ogni tuo verso, conosci te stesso e sei normale o diverso. Conosci te stesso, non solo il tuo aspetto. Conosci te stesso, te stesso, te stesso. Il tuo te stesso te lo devi conquistare. Ferite sulla pelle da dolore micidiale. Normale può sembrare che tu ti conosca. La vita non si ferma, gira come una giostra. Ti sembra di conoscere quel tipo che ho già parlato con te, ma il giorno dopo non c'è. Poiché sai, si buttano parole al vento, ed è per questo che io mi sento ogni momento al centro di un ciclone, fino al limite della sua portazione. Tu fai l'infamone in ogni occasione, e poi va cercando anche un po' di compassione. Interiore sai che il tuo complesso, tu c'è con te stesso, troppo regresso. Presso fai presso a conoscerti, se non fino alla fine sarai tu stessa a fotterti. Sì, credici. Su mai questo a conoscerti dai. Se tu sai che non lo perderai, se ci riuscirai qualcosa cambierai. Sicuramente migliorerai. Su mai questo a conoscerti dai. Se tu sai che non lo perderai, se ci riuscirai qualcosa cambierai. Sicuramente andrai. Conosci te stesso in ogni tuo verso. Conosci te stesso sei normale o diverso. Conosci te stesso, non so aspetto, conosci te stesso, te stesso, te stesso, conosci te stesso, in ogni tuo verso, conosci te stesso, se sei normale o diverso, conosci te stesso, non solo il tuo aspetto, conosci te stesso, te stesso, te stesso, conosci te stesso, in ogni tuo verso, conosci te stesso, se sei normale o diverso, conosci te stesso, non solo il tuo aspetto, conosci te stesso, te stesso, te stesso, conosci te stesso, in ogni tuo verso, conosci te stesso, se sei normale o diverso, conosci te stesso, non solo il tuo aspetto, conosci te stesso, te stesso, te stesso.